ora mi tassi. E tu, tu gufo, e non mi tossi. Ciao Maria, non mi tossi. Ma chi sono? Non c'è uscito. Ami, buonasera, amicata. Buonasera, fiato. Come te vai oggi non vedi nessuno? Tutto in ferie, so. Sarà, fagli sciogliare male, verrà che dura abbortante. Ma se tu non chiami non c'è nessuno, buonasera a tutti. Ciao Marino, buonasera Marino. Che ce l'hai, eh? Cano esce uno, esce ne tutti. Te l'ascolto, caro. Questa stazione la riascolto. Marino, mi ascolti? Certo, ti ascolto, la chiesa, buongiorno, anzi, buonasera. Buonasera, buonasera, questa è la sorella. Provando. E adesso io sono dentro casa, se vuoi esco fuori e controllo a tu adesso. Cosa dici? Adesso io sono un esercizio, tua sorella. Ma chi? È una sorella, io adesso esco fuori e provo la tua sorella, trovo la tua sorella, là. La mia sorella non è buona. Avanti tu. E come mai c'è un esercizio di stazionaria? Allora, vuol dire che qualcosa... Che non anda? No, un S6, adesso ho un S6, quando smette di parlare va un S7. Che è te che andiamo dove andiamo? Allora c'è qualche cosa o nel capo o nell'antenna che non va? Non c'è più il capo, non c'è l'antenna, l'ho accorciato adesso perché era 1.26. Sicuramente c'è qualche cosa nel capo allora che non va. C'era un po' di vento stamattina. Vabbè. Mari, ci sei? Sei andato pure, deve essere andata. Pigliasse un po' di vrejo. Vero, Bacchi? In terrazzo dovevo uscire a attaccare l'antenna. In terrazzo dovevo uscire a attaccare l'antenna? Non uscire, dovevo uscire. Non in terrazzo. Andiamo, ve andiamo. Signor Marì, lavoro lungo. Ha detto che stava improvvisando. Ehi, Marì. Forse è meglio. No. Vabbè. Ma io se ne sta tornando dentro. Marino. Sono tornato dentro in casa. Ma chi se ne sta tornando? Presa c'era fuori. No, si va basso anche. Capisco perché. Ha detto che era freddo buro. Tu mi vuoi tenere freddo? Da chi se l'ho? Sono entrato, là. Marino, non va. No, non ti accorgo nulla, neanche segnale. A Tore arriva normale come adesso, come sempre, ma tu deve tipo. L'altra volta ero con la direttiva. Con la direttiva. L'altra volta sempre non ti sapeva, non ti ascolto lo stesso. E adesso con quella sei? Con quella di Luca sono adesso. Ah, in alto. Io ho messo quello là in alto adesso, là in alto. A 3 metri da terra, 2 metri e 50, 3 metri da terra. Boh, no, negativo, non ti ascolto. Boh. Non ti ascolto, negativo, 0.0. E a Tore l'ascoltavi? Tore arriva benissimo, come Tore come arrivo anche gli altri, benissimo. Allora è questione mia? Sì, è questione tua sì, perché anche ieri abbiamo fatto le prove, li ascolta tutti e ieri ho provato la tua sorella, ho provato anche la mia sorella, anche la lettiva. E ascoltavo tutti ottimi, ma a te è negativo. Invece tu sei la mia ascolta. Qua ti ascolto benissimo qui dentro. La nostra sorella non ti ascolto. E non prima non mi ascoltavi neanche con quella, con il modulato, la mettevo in terra. Esatto. Adesso quale stai usando? Quale è il tuo cugino? Ah, la sorella della tua. Adesso per esempio con questa qui ti ascolto benissimo, vedi? Non è altro, vabbè, ma come Toma arrivi, ottimo. Senza disturbi, capito? Parlo della roba. E sono con tua sorella che bocca fa male, non lo so. Aspettate un attimino, entro subito. E occhi avanti, va. Chissà cosa diavolo c'ha, boh? Non lo so io. Probabilmente sono stazionari, dici. 1.07, 1.06, non è troppo? Infatti, sto scaldando. Aspetta che c'è qualcuno al telefono, mi sta chiamando. Ti risposto un attimino, che ho la caldaia di mia figlia che non vuole partire. Sto arrivando subito, da qui. Il signor Marino, allontanatosi. Oh, andate. Che cosa avete combinato? Che andiamo e andiamo. Deve essere che c'è qualche cosa. Dai, andiamo bene, andiamo. E adesso cosa ti stanno? Sempre 1.03. Pochi di differenza da una radio all'altra. Da una radio all'altra ha pochi di differenza. 1.03. Andiamo. Ma quale stai usando di coso? L'antenna. Tutti i portatili stai usando? Allora c'è qualche cosa che non va. Forse perché è più forte quello là. Questo lo sto dicendo. Questo che stai usando adesso è più forte. Strano però. Cos'è Bacchi? Se non intende nessuno, si è stufato. Siete male, non siete nulla. Ma dov'è? Il cantino è detto Bacchisio. Buonasera comunque. Buonasera Gian Marino. Dove sono in cantina? Ma lo senti Gian Marino? Ah, lo sento, deve essere in cantina, deve essere Bacchisio. Cosa mi da fare a quest'uomo, cazzo, non riesce a si becca? Ma chi? Lampati tutti, buona roba nuova! Ma chiedilo, c'è che il gommino lo so. Il gommino attacchi. Gio Maria, aspetta che sta attaccando il gommino. Perché strano, Strano, Bacchiglio, che sa bene, sortore, cosa ci racconta? Cosa vuole che gli racconti? Speriamo che non entra da un ragazzo da rimanere a sera. Ma ieri sera mi sembra che non ti ha sentito, però non c'eri. Sì che c'ero, c'era la portante pure. E a che ora? Siamo stati dalle 7:15 fino alle 8:10. C'era Giulio, Marino, io e poi un'altra persona che poi ha chiuso. Siamo rimasti in poche, poi ha già cominciato a Sarraio e ha esarrato tutti. Certo, importante. Catta pure i noghi che abbiamo la portata. Non è possibile. Ho intanto riesci a capire qualche galleggiante. Basta ignorarli cosa ci vuoi fare, purtroppo. Sono sempre esistite quelle persone, ci saranno sempre. Bisogna ignorarli e basta. Otto figli a Gemoria, stiamo andando. Ma uscendo sotto. Ore. Mi sono allontanato un attimino che mi hanno chiamato da fuori, quindi andave. E prendi i vacchi. Figli a Gemoria, si sta andando con comune. Gian Marie, Bacchi Gian Marchè, stavi andando col portatile. Non lo sento, Cioè col portatile non lo sento. No, ma mi ha chiesto se stai andando con il portatile anche tu. Ehi, con gomino sono. Sì, tu tutto allora e ma a partire lo sentivo. Come mai oggi non lo sento? Marino, me lo stai coprendo, aspetta a vedere un attimino. Ma chi? Ma tu lo ascolti a Gio Maria? Io l'ascolto io da Gio Maria, io l'ascolto a Gio Maria. E lui è che l'ascolta a me, che questo è il cavolo di Gommino. Gio Maria, perché a te ti ascolta, però tu a lui non l'ascolti. Boh, sempre la stessa ragione, tu, è un macello, ecco, sta frequenza. È un macello veramente. E dille che la metto a posto della matto, va quella tenda, almeno ci sentiamo. Hai sentito Bacchia, metterla a posto della matto, va, mi ha detto. Esco, ma non si può passare nella 27. Io non batto, Maria. Ho verso le 5 era che l'ho accesa. E non c'è nessuno, però io intanto davo un colpo di portante, ma non mi rispondeva nessuno. Dico l'antenna, dove c'è l'antenna grande? Lo dico io si ascolto bene adesso, ascolto. Oh, ma non si può passare nella 27, signor Bacchi, Mari. Per me io non ho problemi, il mio è acceso, dunque, quando volete andiamo. Capito, Aitore, che il marino mi ascolta bene. Sì, passa nella 27, Bacchi, passiamo nella 27. E aiuto. Finito. Matta, lei ci sei? Io già ci sono, è lì, a te. A fondo scala arrivi. Ma allora stai usando quell'antenna là? Certo, l'ho messa fuori. Così sola che arrivo. E io bene arrivo. Benissimo. Una telefonata. Cala cava, andar bene meda. Sì, con quell'antennino so. Andare, arrivi benissimo qua. Sì, proprio perché non c'avevo l'antenna. Con quell'antennino in gomma non va. Capito. Oh. Già va bene così, come stai usando adesso arrivi a qui. Perché qua arrivi un bel forte. Mi ha detto anche Luca che stava arrivando bene. Oh signor, si è messo in gente sul 23 o sul 20? 23. Ehi, allora, sento i colpi io. Sì. Ho ascoltando, sai. Sono al 30, adesso slatter io qua. E dopo è qua? 30. Sul 23 sono. 23 sono. Il biglietto in coppia tutti i batti, no? Ehi. Quando entrano lì per forza. Cosa vuoi che ti dica? KK. Oh, ti stai arrivando bene, sento chiaro, chiaro, chiaro. Ehi, anche io, benissimo. Sì, ma quell'antenna va bene. Che te? Te l'ho detto che andava bene. Piccolina, ma. E l'altra l'ho fatta, Perfetta, Se ti dà giudizio. Va benissimo. Arriva come questa, quella che ho costruito. Ma penso che sia uguale. Eia, che magari eri davanti al muro ed era bloccata lì, però arrivavi bene lo stesso. Se tu la provi quando è libera, vedrai che arrivi da tutte le parti. Infatti te la volevo proprio portare a vedere se c'era da stazionare, se c'era da tagliare. Ma la misura è giusta, come hai detto tu, io non l'ho tagliata, la misura sua è quella. Adesso me ne devono dare un'altra di quelle antenne lì, capito? Via, anda bene mela. Sì, se ne può fare un'altra, capito? Io ho aggiustato il coso, la ventola della macchina, era un falso contatto, non la faceva partire, cioè il coso ossidato, adesso mi spruzzo. L'ho fatta partire lo stesso, no? Adesso bisogna mettergli quello spray per contatti, così lo pulisco bene e funziona bene. Ce l'ho io dello spray per contatti che l'ho comprato. E anche io ce l'ho. Quello lì, una bombola grande ne ho preso. Mi serviva perché dovevo spruzzarlo nei trimel. E quindi l'ho dovuto comprare perché non ne avevo, quindi ho utilizzato quello. Oh. Vabbè, va. Andà bene meda. Andà bene meda. Che oggi ho fumato come un dannato, che. Ah, va, lo compito, rinchiudo, così non mi fate l'aggiornamento. E me li fa domani. Se non ci sono, glieli faccio fare io. Hai fatto, ho resettato tutto. Sì, tutti i mezzi cancellati. Mi sei incasinato, Windows 10, ho messo Windows 7. E almeno lavora meglio. Ma a volte secondo cosa ci metti? Ti rallenta anche il sistema operativo, capito? Io c'avevo il computer lo stesso, ho buttato tutto a terra e me l'ho riformattato tutto. Vabbè, alcune cose le ho perse, perché una volta che fai quello lì, che lo formati perdi tutto. Sì, infatti. Ma quello che mi serve ce l'ho. E allora futti dinne. Vabbè, là. Adesso ti saluto che prepariamo qualcosa da mettere su due denti. Vabbè, vai. Buona cena, buon tutto e ce la riascolta. Al limite ci aggiorniamo. Ciao, ciao. Tu, Franco, aspetta un attimo. Va. E dimmi. A Lucia gli devi dire se mi spiega come si fa quella terapia là. Già, vabbè, già ne parliamo di persona, là. KK. Per quella terapia là. Vabbè, al limite non ce l'avete, ce l'ha il numero di telefono, mi fa fare uno squillo e ci mette d'accordo. Ok, da, ci sentiamo, alle prossime. Ciao, ha detto va bene, non problem. E te, da gufo, dormitosi, ma senza dormitosi, gufo. Ehi, you, amore, amore, che amore, amore, che amore, ho vivi amore. E beh, non mi tossi. No, sul divano adesso. E beh, una lampadina a sonfiona. Sì, figa. Forte, forte, veramente forte. 4? Cosa 4? Quanto... 4 euro costa? Aspetta, ci guarda. No, sì, io non ti trovo. Per la Wish? Ascolta, dopo quanti mesi? Aspetta che... più di un mese ci ha messo questo. Ascolta, cosa fa? 80 watt almeno di luce? 70, buf. Aspetta, entrando nel sito. Fa come tipo 70 watt, una lampadina a 70 watt almeno. Ma sai cos'è? Dura 8 ore, ha detto, così, Ehi, ma sai cos'è il discorso? Il discorso è che... come si dice? Che quando si rovina la batteria se la rovina un po'. Se la ricordi la prima che ho ordinato, quella la stiamo ancora usando. Capito? La notte, quando ci si curica, magari una lampadina così per usare il computer, capito? Fanno molto comodo. Se qui giorno la metti a caricare. Se no, una batteria, lo vedi un po' da quanto è, la costruisci tu. Ma sono batterie ricaricabili, capito? Perché c'è il pannellino solare. Probabilmente sono quelle da 3,7, come quelle del telefono, uguali. Aspetta, guarda. Questa l'ho ordinata il 9 gennaio. Cosa, Lu? Questa l'avevo ordinata il 9 gennaio, me l'hanno già rimborsata anche. Addirittura, cioè ti è venuta gratis allora? Quando supera i costi, quando supera quei giorni che loro ti dicono che deve arrivare, ti rimborsa. Tu li mandi in fallimento, li manda tu che... Io? Loro mi mandano il messaggio, lo vedono anche loro. Mi mandano il messaggio, è arrivato l'articolo, no? E mi pagano! Allora, fallo anche a me, come arrivare gratis, pure a me. Devi pagare, insomma, no? Che rimborsano, non è che ti tramandano gratis. Vabbè. Fai così. Ordiniscila. Vabbè, qua dice... Aspetta, cercando a quanto corrisponde. Vabbè, comunque c'hanno queste batterie come il telefono, dai, più o meno. 420 lumen, sono 7 watt, ci sono 20 led dentro. No, 16 letti. Ellu, sta andando, ma che era però? Lo fa un tipo, mi ha sistemato un coso, un alimentatore di computer. Ti ha sistemato? Sì, praticamente la figlia ci ha mangiato lo spinotto, ti ha fatto laggiù compreso, ci ha stomasticato e ha sganciato lo spinotto, e allora ha dovuto fare, tagliare tutto, anche il coso, la bacchilite, e gli ho messo una delle mie, poi gli ho messo quello, l'autostringente, come si dice, quel coso, quello che lo scaldi si stringe, ha fatto un bel lavoro. Hai detto, se occupa il ginocchio, fai mia, e aveva già contato i bussi. Ah beh, certo. Ecco, tu beh. Se no, come fai a finirti la seconda villa? Cosa, Lu? Se no, come fai a finirti la seconda villa? Sì, un desiderio. Sono passato in infaria. Ma te la sei venuto la villa, non io. Villa Certosa. Ah? Villa Certosa. Posso va su Villa Arzilla. Che? Ah, vero. Che lo danno? Ciao Marie. A te, cosa vai? Sono tutti i macchiagli. Oh, grazie, non sei più inteso. Poi giù se ne trovi con un buchetto. Ah, vero, la notte con un buchetto te lo metto. Sono messi? Non sei più inteso. Telefonino 6 pollici Android 7.1 4G. Aspetta, guardo le caratteristiche. Sì, ma non si viene la chi la voce chi si aggiorna l'Android si deve un po'. Ah, perché? Sto un po' carrano. Perché? Luca è l'Ulando. Vabbè da di Max gli si andano a cavalcare un toro. Poi è un vazio per là. No, non funziona, mi raccomando. Devi dire la volontà, sì, tutto qui. Ma è Ludando? Domani lì sei di nuovo? Devo passare il magazzino per un strada. A fare le piccole di partita. Ma cosa ti volevo dire? Ma non ti fa l'abbonamento del tram, tanto lo prendo tutti i giorni. Io poi sono andato da Putinucci. No, la mattina quando salgo non ce n'è a quell'ora. E la sera sopra quello della Putinucci. Allora, l'abbonamento costa 34,50 per un mese e in personale. Io lo so, ok. Ti conveni tu, verbale cazzo, questi 30 euro un balichissimo verbale lì. È brutto, da ciappa, nega, va. Poi, c'è gente che non ne paga, un bel. Io alla fine, sa che lo pago. Bello, ciao. Ciao, Lu, dai, ci sentiamo domani, se vuoi passare. Stai arrivando? Ciao. Sì, ciao.